Investire informati. E allora, sono tanti probabilmente gli italiani che sono andati a caccia di informazioni quest'anno per capire bene come funziona la dinamica di questi PIR, i piani di investimento di lungo termine, nati con la legge di bilancio dell'anno scorso. Strano che non te la sia portata sotto braccio. No, la tengo tra le mie cose più care, però l'ho lasciata, hai le linee guida del MEF. L'ho lasciata, sì, ho le linee guida del MEF che sono state diffuse, come sai, già alla fine dell'anno scorso e poi riaggiornate nell'ultimo ottobre, quindi il mese scorso. Hanno detto anche delle cose importanti, le avete sentite qui a Radio 24, le avete lette sul Sole 24 Ore. La sostanza, cara Deborah, è che questa è stata davvero la novità del momento per tutti i risparmiatori, soprattutto anche forse a, chissà, smosso un po' la nostra abituale pigrizia di investitori italiani che adorano poi o tenere i soldi sul conto corrente, esatto, che non è mai diciamo una gran scelta, visto che ti danno dei rendimenti da prefisso telefonico internazionale. Oppure sotto il cemento. Oppure nel mattone, naturalmente. Esatto. Il mattone ha sempre un richiamo stabile. Tema, hai colto, come dire, il tema, perché gli italiani che risparmiano moltissimo, un po' meno negli ultimi anni, perché in realtà hanno anche attecchito al risparmio degli anni passati, anche per fronteggiare i momenti più duri della crisi, ma in realtà continuano a risparmiare ancora molto. Però per i professionisti del risparmio, la distribuzione delle risorse delle famiglie italiane avviene in maniera non efficiente. Insomma, sono tutti temi cari alle società di gestione del risparmio, soprattutto a quelle che si sono lanciate nel mondo PIR con grande fervore, con grande convinzione, come ha fatto per esempio ASGR. Noi stamattina abbiamo il presidente Alberto Foà, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Il microfono si sarebbe utile se... È utile. Allora, cosa abbiamo deciso di fare stamattina con Mauro Meazza? Abbiamo deciso di parlare dei PIR, come funzionano, cosa è successo dall'inizio dell'anno, da quando sono partiti, ma soprattutto di spiegarvi come le società di gestione li confezionano, perché qua sembra che quando parliamo di fondi di investimento in termini generali parliamo di entità astratte che vengono prodotte magari con una persona che li gestisce, ma che sta davanti a un terminale dalla mattina alla sera e che costruisce un fondo di investimento solo guardando alle quotazioni delle società quotate. In realtà qua parliamo di gestori che vanno a visitare le aziende, conoscono gli imprenditori e quindi con una certa consapevolezza e professionalità appunto poi elaborano queste soluzioni di investimento che vengono sottoscritte dai piccoli risparmiatori. Quindi stamattina, oltre a Foà, avremo un imprenditore che ci racconta cosa è successo a lui anche da quando i PIR sono partiti. Tra l'altro, Deborah, non abbiamo ricordato che ci possono seguire anche su Facebook, naturalmente, la nostra pagina Facebook. Salutiamo anche gli ascoltatori che preferiscono il social. E volevo dirti, questa cosa è molto importante perché, al di là del, come dire, dello specchietto per le allodole fiscale, perché quello è stato, bisogna ammetterlo, il fatto che il fisco ti facesse questo scontone è stato poi il richiamo, però è importante guardare dentro il piano individuale di risparmio che viene proposto. Ci sono dei limiti di legge precisi, per cui una certa quota deve andare alla cosiddetta economia reale, alle piccole e medie imprese, e poi ci sono altre quote che sempre per legge devono essere utilizzate. Allora, poiché tutto lo spirito è sosteniamo le piccole e medie imprese italiane, che come sappiamo sono quelle che poi esportano, sono quelle che spesso sono più dinamiche, spina dorsale, bisogna però che il gestore, chi propone questo PIR, insomma, abbia una esperienza diretta, direi, sul campo per dirci che cosa va a scegliere e quindi anche metterci nelle condizioni migliori per il nostro investimento, che deve essere, per sfruttare, lo voglio dire subito, lo sconto fiscale lo dovete tenere per almeno 6 anni, chiedo conferma. Cinque anni, al sesto potete uscire senza pagare dazio fiscale, come si potrebbe dire. Alberto Foà. Ma il PIR è senz'altro una misura interessante, che tra l'altro è stata adottata non nella stessa forma ma come spirito anche da altri paesi. L'idea è quella di portare gli investitori, e in particolare i piccoli investitori, a investire sul mercato azionario, che, come è noto, nel medio lungo termine dà rendimenti senz'altro superiori sia ai rendimenti nulli del conto corrente sia anche agli immobili. Devo dire che la misura che è stata adottata in Italia, e che, come ripeto, è stata adottata anche in altri paesi, mette finalmente il mercato e il rapporto fra i risparmiatori e le aziende un po' sul tavolo. Si è detto per tanti anni che l'Italia è un sistema eccessivamente bancocentrico, mm-hmm. in cui le imprese dipendono troppo dal credito bancario, che le imprese hanno troppo, sono sottocapitalizzate, hanno poco capitale di rischio. Quindi il senso della norma, oltre che un senso diciamo prettamente tecnico e fiscale, ha anche un po' un senso pedagogico, cioè investite nell'economia e tenete l'investimento per un periodo di tempo congruo e vedrete che avrete dei ritorni. Lo sconto fiscale è importante perché... che è duplice peraltro, quindi non è solamente non pagare le imposte sull'eventuale guadagno conseguito, no, con l'investimento. No, è quello, cioè non si pagano le tasse sulle plusvalenze. E poi c'è anche il secondo, l'imposta di successione. Sì, sono esenti, peraltro vabbè, sarebbero comunque esenti l'imposta di successione, perché l'imposta di successione in Italia, che tra l'altro è le più basse del mondo, per gli eredi in linea diretta è esente fino a 1 milione e si paga il 4% oltre 1 milione, quindi diciamo che secondo me è un'imposta contenuta, molto non contenuta. Non è la prima leva, però insomma c'è anche quella. Sì, certo, c'è anche quello. Allora, intanto molti ascoltatori stanno già scrivendo, Mauro, e vedo che il tema più gettonato tra chi ci chiede delucidazioni sul funzionamento dei PIR è il dove li trovo. Perché, allora, intanto c'è proprio un bilancio che è stato stilato da Assogestioni pochi giorni fa, che ci racconta, ci dà il bilancio al terzo trimestre dell'anno sulla raccolta conseguita dal sistema, 7 miliardi e mezzo di euro, e sono 30 al momento i gruppi che promuovono fondi aperti peer compliant. Peer compliant perché? Perché molte società già gestivano fondi che investivano sul mercato italiano e adeguandosi alla norma legata appunto ai peer contenuta nella legge di bilancio sono diventati poi fondi peer. Molti ascoltatori dicono: non li troviamo, la banca non te li consiglia, la banca non li fa, non li promuove. E quindi questo è vero, no, Foa? Perché devo dire sì che non tutte le banche, esatto, promuovono con la stessa forza i peer. Noi abbiamo fatto per esempio un manuale sui peer molto svelto, molto contenuto, che si può scaricare dal nostro sito www.acomea.it. Tra l'altro sul nostro sito si possono anche comprare direttamente i peer con una commissione di gestione scontata, però normalmente io credo che se uno chiede in banca, però utilizzate anche distributori, insomma, certo, canali bancari, se uno chiede in banca i fondi peer, per esempio tutti i nostri distributori hanno abbastanza spinto questa modalità, normalmente si trovano, e anche le altre banche normalmente li propongono, tant'è vero che oggi i PIR amministrano una somma di 12 miliardi, che in assoluto è una cifra grossa, però il rapporto alla ricchezza delle famiglie è una cifra infima, perché 12 miliardi su 4.000 sono ancora molto pochi. Tra l'altro voglio ricordare che i PIR non sono solo lo strumento per investire nelle piccole e medie imprese, perché in definitiva la legge prevede che un fondo, per essere peer compliant, debba investire. Ecco, spieghiamo allora le regole di funzionamento. Quali sono i vincoli che avete voi come gestori? Perché sì, non è che potete fare tutto quello che le regole volete. Principali sono due, sostanzialmente: che il 70% del fondo venga investito in strumenti finanziari emessi in Italia o da società europee che hanno una stabile organizzazione in Italia, e che il 30% di questo 70%, quindi in definitiva il 21% del fondo, venga investita in aziende che non fanno parte del FTSE MIB, cioè delle prime 40 società. Quindi in definitiva sono dei vincoli piuttosto lassi, piuttosto ampi, perché diciamo facendo la sintesi della norma possiamo dire tre cose: il 30% del fondo può essere investito ovunque, quindi anche in mercati emergenti, mercato americano, in obbligazioni inglesi o qualsiasi cosa uno gli possa venire in mente. Il 70% deve essere investito in Italia o in titoli europei che abbiano una stabile organizzazione in Italia, quindi in qualsiasi titolo azionario o obbligazionario italiano, e di questo 70% il 30% in piccole e medie imprese, che tra l'altro sono quelle che nel medio termine possano sviluppare una crescita maggiore. Quindi è senz'altro uno strumento buono ed efficace. Tra l'altro uno dei propositi della norma è non solo dal lato del risparmiatore portarlo a investire in azioni italiane, ma anche per ispessire il mercato, quindi per incoraggiare nuove quotazioni. E io ricordo che per esempio uno dei mercati che è nato così 30 anni fa era il Nasdaq, dove per primo si quotò ad esempio Microsoft, che era proprio il mercato destinato alle piccole e medie imprese, alle imprese a tecnologia avanzata, che oggi è diventato il mercato di punta. Quindi anche per quanto riguarda l'Italia, oggi l'investimento in piccole e medie imprese, piuttosto che nei colossi già stabiliti che ci sono nell'economia italiana, con una prospettiva di qualche anno sicuramente può diventare un investimento importante. E vedo anche che dal lato delle imprese questa opportunità è stata accolta, ed è stata accolta perché da una parte le imprese capiscono che quotarsi, avere una dimensione pubblica, trasparente, dover comunicare al mercato dei piani di crescita è una cosa intelligente, e dall'altra parte perché, essendo che il credito bancario, anche a seguito delle vicissitudini di questi ultimi 10 anni, si va via via rarefacendo, e normalmente essendo le banche più portate a finanziare l'immobile, il capannone, l'esistente, chi può mettere una garanzia piuttosto che la nuova idea, il nuovo concetto, che è un lavoro che tipicamente deve essere fatto dai mercati finanziari e dai mercati azionari. Quindi io direi che questa è una pietra miliare, non tanto per le sue dimensioni, ma una pietra miliare nel senso che finalmente anche la politica ha capito qual è il tipo di incentivo, qual è il tipo di appoggio che deve dare ai mercati finanziari. Volevo ricordare due cose, torno dal punto di vista diciamo dell'investitore, dell'investitore quello proprio basico. Il PIR ha alcuni limiti, alcune soglie dimensionali, si può investire un massimo di 30.000 euro all'anno. C'è proprio un ascoltatore che ce lo chiede. 150.000 euro in totale, quindi questo è il tetto massimo che uno può mettere sul PIR. Il Ministero dell'Economia ha detto una cosa importante che potrebbe interessare, visto l'orizzonte temporale del lustro, dei 5 anni, che è quella che il PIR può essere sottoscritto anche da minorenni, quindi questo tipo di strumento ne fa anche una sorta di alternativa a certi strumenti che magari si utilizzano per i ragazzi, per i bambini, per dargli nati per il regalo della cresima, no? Una volta si faceva il libretto postale, ma penso si faccia ancora, perché è un uso che è rimasto nella nostra tradizione. Ecco, il PIR, avendo questo orizzonte temporale almeno di 5 anni, se si vuole massimizzare, poi se uno esce prima paga le imposte, avendo questo orizzonte temporale diventa anche uno strumento interessante per un investimento per un minore. Infatti. Allora, adesso qua, fino ad ora abbiamo raccontato tutte le cose belle, però dobbiamo anche raccontare quelli che sono, tra virgolette, i timori o comunque le perplessità che in molti hanno avanzato, no? Notando in particolar modo la crescita di tutte le società quotate all'AIM, che è il segmento della borsa italiana dove sono quotate per l'appunto le piccole e medie imprese, che sono il cosiddetto universo investibile dei PIR. Tutte le società quotate in questo segmento dall'inizio dell'anno sono cresciute moltissimo in termini percentuali, sono arrivate anche nuove società in borsa e questo sicuramente è stato un buon elemento, ma qualcuno ha detto chiaramente, Alberto Foà, questo fenomeno dei PIR rischia di mandare in bolla il mercato di riferimento. Allora, facendo due conti, in realtà questa è un'obiezione che si può forse facilmente smontare. Detto questo, il bravo gestore chiaramente poi va ad investire sulle società che ritiene valide, non è che spalma le risorse che ha a disposizione a su tutto e a pioggia. Però insomma, come rispondere a chi continua a sostenere questa tesi? Allora, io credo che questa non esiterei a definire questa tesi una bufala. Una fake news. Sì, una fake news, nel senso che oggi la borsa italiana capitalizza 640 miliardi. Di questi 640 miliardi, 500 miliardi è la capitalizzazione delle prime 40 aziende, quindi aziende in cui può investire il PIR per il 70%. Poi ci sono altri 160 miliardi di capitalizzazione, che è quel 21% in cui il PIR sarebbe obbligato a investire. Ora, voi capite bene che le masse gestite fino a questo momento dai PIR, che sono 12 miliardi, che possono essere investite in una borsa, che possono essere investite per il 30% ovunque, e per il 70% in una borsa che capitalizza 640 miliardi, e che per il 20% di questi 12 miliardi, che sono due, sono obbligati a investire in aziende che globalmente capitalizzano 160 miliardi, senza contare tutte le altre aziende che nel futuro possono arrivare sul mercato, vi rendete conto che l'obiezione per cui queste aziende quotate sulla borsa italiana, che non fanno parte del FTSE MIB, sarebbero in bolla, è assolutamente non giustificata. Non c'è il rischio con questi valori che lei ci ha ricordato. Ma assolutamente. Non c'è il rischio che ci sia un sovraafflusso, un afflusso eccessivo di denaro, perché anzi siamo ancora anche con questa cifra in più. Voglio anche ricordare che dall'inizio dell'anno, anche grazie ai PIR, ma non solo grazie ai PIR, grazie anche a un po' di ripresa che c'è nell'economia italiana, e anche dovuto al fatto che le banche erogano meno credito, sempre più aziende si stanno affacciando alla borsa. Quindi questa cosa della capitalizzazione della borsa, del numero di aziende presenti in borsa, non è da vedere come una cosa fissa che rimarrà così per i prossimi 10 anni. Tra l'altro voglio anche ricordare che la capitalizzazione della borsa italiana in rapporto al prodotto interno lordo, che è circa del 30-40%, è una delle più basse del mondo occidentale. Ci sono, tanto per dire, la borsa americana in rapporto al suo PIL capitalizza più del 100%. Cioè, ma basti vedere quanto capitalizza Apple, quindi solo da lì basta partire per sì, per no, dare adesso, un a parte senso Apple, vuol dire, in Inghilterra, in Svizzera, sì, in Germania, la borsa ha una capitalizzazione complessiva in rapporto al prodotto interno lordo che è molto più importante, che vuol dire che l'economia privata, che si è aperta al mercato, che è trasparente, perché ovviamente per essere in borsa deve avere bilanci certificati, eccetera, eccetera. Quindi l'economia, chiamiamola non sommersa, l'economia che si espone ai mercati internazionali, negli altri paesi è una fetta molto più grande dell'economia. E questo è uno dei significati, delle motivazioni del PIR, cioè uscire, diciamo, dall'italietta dell'economia sommersa e finalmente portare le aziende al confronto sui mercati internazionali. Allora, peraltro, poi su questi aspetti, sul tema della capitalizzazione complessiva di borsa, dell'effetto PIR in borsa dall'inizio dell'anno, faremo un punto proprio dettagliatissimo con Barbara Lunghi, responsabile dei mercati primari di Borsa Italiana, perché hanno elaborato e diffuso un bilancio proprio questa mattina, perché si è quotata società è Equita Group, e peraltro sta guadagnando già il 10% in borsa, quindi favore c'è, poi vedremo se si aggiusterà nei prossimi giorni, e quindi tra un po' proprio la professionista che ci darà un quadro più dettagliato. Va bene, allora, visto che non facciamo altro che parlare di mercati questa mattina, sì, certo, a questo punto, Deborah, le borse. Di denari. Vedi come ti agevolano i nostri ragazzi con i Pink Floyd. Avevi più volte caldeggiato di utilizzare questa canzone, noi prontamente ti abbiamo accontentato. Io adoro i Pink Floyd e quindi voglio ringraziare pubblicamente Giulia Lauricella e Marco Lombardo per averla messa quest'oggi in scaletta. Esatto, perché... allora, ad Alberto Foà piacciono i Pink Floyd? Molto. Ah, ecco, magari... Sono un appassionato di Pink più Floyd. Più o meno dei Pir? No, più i Pir, decisamente. La musica dei Pir la sento tutte le mattine. Allora, stiamo parlando dei Pir Floyd. No, scusate, un gioco di parole veramente di bassa lega. Tremenda quella dei Pir Floyd. Perché ne vogliamo parlare anche con chi ci ha chiamato, con gli ascoltatori che ci hanno chiamato. Angela, ad esempio, da Roma. Buongiorno, Angela. Ah, buongiorno, finalmente. Senta, allora, io 2 anni fa ascoltai appunto la trasmissione riguardo questo argomento, quando era 2 di denari. Sì. Ecco, sì. E io mi informai con una società, appunto, chiamai Milano, era una società di Milano, perché mi interessava la cosa e mi interessa tuttora. Sì, 2 anni fa, Angela, sono partiti a febbraio, marzo. Beh, no, voi ne parlaste, ma non mi ricordo esattamente, era lei con Nicoletta. Un annetto fa, sì, quando la legge di bilancio li aveva varati, sì, ok, va bene. Appunto, me lo ricordo, perché... Sì, sì. Allora io mi sono informata, chiamai su internet, poi chiamai questa società di Milano... E questa mi disse con un tono molto sarcastico, sì, ma dice comunque il rendimento non era sicuro, cioè 5 anni infatti durava, però alla fine del periodo non era detto che io appunto guadagnassi, e allora io per tenere bloccato 5 anni magari una cifra, che ne so, 50 o 100, la cosa non è che mi garbava, certo, molto. Certo. Angela, è investimento sul mercato azionario, per cui per definizione non è sicuro, non credo che il suo consulente abbia scoperto l'acqua calda, Alberto fa, però insomma queste indicazioni per chi ovviamente magari non è convinto di produrli in casa propria, di distribuirli, poi ovviamente, come dire, le fake news. Certamente il consulente ha ragione, perché non è detto che il guadagno possa arrivare. Ma, poi bisogna dire, prima di tutto, che il denaro non è bloccato. Esatto. Nel senso che uno, come da ogni fondo investimento, da un fondo peer può entrare e uscire tutti i giorni. Tant'è vero che i fondi peer compliant fanno la quota tutti i giorni, quindi sono esattamente come tutti gli altri fondi. La differenza fra tutti gli altri fondi e i peer è che se uno tiene il fondo per 5 anni o più è esente dalla tassazione sulle plusvalenze, mentre invece con gli altri fondi al momento dell'uscita paga la tassa sulle plusvalenze. E poi il guadagno sicuro dipende anche uno che ovviamente come tutti gli investimenti sui mercati azionari non è paragonabile al conto corrente postale o al conto bancario o al conto di deposito che danno un guadagno sicuro, che in questo momento tra l'altro è un guadagno sicuro dello 0%. Possono salire, possono scendere, hanno volatilità. Ovviamente nella storia si dimostra che gli investimenti azionari, se tenuti per un periodo di tempo congruo, danno dei rendimenti soddisfacenti. Mm-hmm. Gianni, volevo dire una cosa, che alla fine la domanda dell'investimento sicuro, cioè che dà un guadagno, non ci permetteremo mai di consigliarlo qui a Due Denari, ma cara Deborah, per carità, che ci portano subito dentro. Le nostre non sono sollecitazioni a sottoscrivere una cosa piuttosto che un'altra, vi stiamo spiegando una novità finanziaria e normativa che è andata molto bene. Esatto, l'anno prossimo lo scenario potrebbe essere diversissimo. Nessuno vi può garantire il rendimento, il guadagno, eccetera, quantificarvi il guadagno, insomma, anzi io inviterei così molto modestamente a diffidare di chi vi dice vi farò guadagnare il 10% o cifre anche mirabolanti. Ma io diffiderei anche di chi dice, a fronte di una persona che ti chiede informazioni su uno strumento di investimento, no, non prenderlo, non sottoscriverlo, lascia stare perché non rende niente se tu non lo sai. Soprattutto se queste informazioni sono state ricercate un anno fa, quando ancora non c'era neanche. Non c'erano neanche prodotti. Esatto. Oltretutto, un'altra cosa interessante, caro Mauro, è che le società che rappresentano quello che io definisco l'universo investibile dei peer hanno preso a crescere ancor prima che i peer partissero, proprio perché è stata la normativa a cominciare a spingerli, per cui tutte quelle società che erano state molto poco considerate anche dagli investitori, proprio perché piccole e quotate in questo segmento di mercato che adesso è stato rispolverato, ma prima non era così così, come dire, famoso e pieno di appeal, ecco, diciamo che da quel momento sono partiti gli acquisti su queste aziende, quindi ancor prima che i peer partissero, e quindi già un certo fermento, insomma, la norma l'aveva creato. Ne racconteremo esatto, qualcuna, ma esatto. Intanto sentiamo la domanda di Gianni da Roma, Deborah. Sì, Gianni dove è andato? Gianni non... Eccomi, pronto? Ah, buongiorno, sì. Gianni, ecco. Buongiorno, vorrei sapere gentilmente se c'è una media del rendimento in quest'anno degli investimenti peer in percentuale. Allora, del sistema complessivo non ce l'ho, magari Alberto Fuap forse può portarci qualche dato rispetto ai prodotti in casa propria. Non siamo molto convinti del fatto anche di far parlare un'azienda dei suoi prodotti nel nostro programma, però inevitabile stamattina doverlo fare. Diciamo, peer ce ne sono di vari tipi, nel senso che ci sono quelli più squisitamente azionari, un po' più aggressivi, e quelli invece un po' più flessibili, esatto, bilanciati. Quelli azionari sono andati bene, nell'ordine del 10%, però appunto, come si diceva, non è una percentuale fissa o garantita o garantita. Esatto. È andata bene quest'anno, Anche perché la borsa italiana è andata bene, è salita, sono salite le borse internazionali, è salita anche la borsa italiana, i fondi flessibili sono andati bene pure loro, meno bene di quelli più aggressivamente investiti in borsa. Però, come ripeto, qui l'ottica non è quella di avere il ritorno annuale o il ritorno medio i prossimi 5 anni scritto nella pietra, perché questa cosa ovviamente non si può fare. Non si può dichiarare, non c'è, non, non, e sarebbe, diciamo, anche scorretto farlo. bisogna abbracciare un po' una filosofia, la filosofia dell'investimento azionario. Tra l'altro ricordo che i PIR, come qualsiasi altro fondo investimento, cosa interessante e importante, rappresentano un portafoglio diversificato, cosa che diversamente che difficilmente sarebbe raggiungibile per un singolo investitore. Cioè quando uno compra un fondo, anche un PIR, anche per una cifra modesta, anche per 500 euro, anche per 1000 euro, si trova in portafoglio 30, 40, 50, 100, 120 aziende. E quindi è anche la diversificazione che diciamo dà una certa sicurezza, non di rendimento, ma diciamo da una certa sicurezza complessiva all'investimento. Allora, tenga da parte due domande a cui risponderà dopo, verso la fine, quando abbiamo sentito anche gli altri due ospiti che abbiamo collegati telefonicamente. Uno, Valeria ci scrive: il mio consulente finanziario mi ha proposto i PIR, ma io non mi sono fidata delle promesse dello Stato sulla tassazione nel lungo periodo. È una domanda ricorrente. Se fra due anni lo Stato si alza e dice questo vantaggio fiscale te lo voglio cancellare, perché la violazione dello statuto del contribuente non è una pratica. Però sì, è che vero. Non conosciamo. No, tu Mauro, hai, già hai ragione, Deborah, però è difficile che ci sia una norma con questo genere di retroattività. Cioè, è vero che veramente si fanno norme fiscali con efficacia retroattiva, ne stiamo preparando qualcuna. Allora, magari non retroattiva, però se la tassazione venisse abolita. Però se uno sottoscrive oggi, è presumibile, è ragionevole pensare, le garanzie non ce ne sono, c'è la sicura incertezza del fisco, però è ragionevole pensare che questo trattamento annunciato oggi venga portato fino alla scadenza, a questi famosi 5 anni di cui stiamo parlando. Del resto, come tutte le detrazioni, vuol dire, se uno pensa che quando uno fa un mutuo gli interessi sono detraibili, molto spesso si fanno mutui a 10 anni o a 20 anni, allora uno dovrebbe farsi la ma stessa, ma anche a 30, diciamo che adesso il più gettonato sono oltre i 20 anni, continuano ad essere oltre i 20 anni. E poi i costi, perché qualcuno si lamenta che sono comunque molto molto costosi, ecco. Insomma, che gli oneri sono non indifferenti. Due di denari. Adesso facciamo la ricerca di tutte le sigle dei quiz degli anni Ottanta. Va bene, facciamo rapidamente il domandone. Dovete rispondere telefonando all'800240024. Vogliamo sapere quanti anni dovete tenere l'investimento in un PIR per avere l'incentivo fiscale. Telefonate all'800240024. In premio vi mandiamo la guida dei PIR di A come A, così almeno oggi non portiamo, non mandiamo via. Quella scaricabile gratuitamente dal sito. Esatto, e noi così la regaliamo, perché è un regalo gratuito. Vabbè, detto questo, la fatica di cercarla. È tardissimo, dobbiamo sentire due ospiti con Mauro. Allora, il primo è Pierluigi Bocchini, che è presidente esecutivo di Club SPA. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e ai nostri ascoltatori. Allora, Clabo è una società marchigiana, non l'ho chiamata per questo motivo, non cominciamo subito a avere cattivi pensieri, a fare maliziosi, però è una società quotata all'AIM di Borsa Italiana e che rappresenta una delle opportunità di cui possono approfittare i gestori che appunto maneggiano i PIR, quindi è una società che rappresenta una delle tante universo investibile PIR. Allora, Bocchini, se ci può raccontare in qualche minuto quando vi siete quotati voi e cosa è successo alle vostre quotazioni da quando i PIR sono partiti, quindi dall'inizio di quest'anno? C'è stato più movimento o tutto sommato i gestori vi avevano già scoperto prima e quindi per voi non è cambiato molto? Ma noi ci siamo quotati nel marzo del 2015 ed abbiamo scontato un periodo sicuramente di scarsa liquidità del mercato. Il titolo è sceso moltissimo con pochissima liquidità. Non ho ricordato peraltro che cosa fate, le vetrine refrigerate, quindi tutte quelle vetrine dove ci sono i gelati, la pasticceria che noi frequentiamo appunto con grande felicità quando andiamo al bar o in questi locali, ecco, molte di queste vetrine sono le vostre, quindi diciamo neanche, come dire, high tech o società chissà di quale tipo, insomma economia, manifattura molto tradizionale italiana. Bocchini. Esattamente. Noi siamo iniziati, il nostro titolo è iniziato a salire in modo piuttosto rapido e significativo in concomitanza di un paio di eventi importanti. Uno sicuramente è l'avvento dei PIR, ma in concomitanza all'avvento dei PIR noi come società abbiamo concluso una grossa, per noi una grossa acquisizione in Cina, che ha cambiato la dimensione dell'azienda sia in termini di dimensione di ricavi che di marginalità. e questi due fatti assieme hanno fatto sì che una strutturale sottovalutazione del titolo fosse poi recuperata molto rapidamente e nell'arco di sostanzialmente 3-4 mesi il titolo si è apprezzato di 3,5-4 volte circa. Allora, tra l'altro il tema importante a Bocchini è anche quello di poter invogliare altri imprenditori, i suoi colleghi, alla quotazione in borsa. Sappiamo che in Italia c'è molta resistenza in questo senso, perché molti piccoli imprenditori intanto a volte ritengono di non avere forse le qualità dimensionali per poter fare questo salto di qualità, e non è necessario in realtà essere una multinazionale almeno per accedere all'AIM Italia. E poi molte resistenze perché ritengono e considerano un po' insopportabili tutti gli obblighi di comunicazione al mercato, rappresentazione della semestrale nel vostro caso, perché all'AIM si presenta non la trimestrale ma il bilancio appunto ogni semestre. Questi sono davvero dei limiti che una società che debutta sul mercato fa fatica a rispettare, oppure per voi non ci sono stati problemi? Ma intanto diamo la size: noi siamo un'azienda di 40 milioni, quest'anno supereremo di poco i 40 milioni di ricavi, con circa 300 dipendenti, e quello degli obblighi e dei vincoli di cui lei stava parlando sono degli obblighi e dei vincoli che a mio avviso gli imprenditori dovrebbero avere a prescindere dalla quotazione in borsa. Rendere pubblici i propri bilanci una volta ogni 6 mesi anziché una volta all'anno, come dispone la legge, è secondo me una buona consuetudine, una buona abitudine di gestione. Detto questo, io onestamente dalla quotazione ho visto solo aspetti positivi. Quello che ripeto sempre a chi mi fa questa domanda, l'alternativa, come peraltro mi sembra di aver sentito nel corso della trasmissione, a questa fonte di finanziamento è normalmente il canale tradizionale, sì, bancario. E io dico sempre che le banche guardano i bilanci, gli investitori guardano i business plan. Ecco, quindi con il bilancio si guarda la storia dell'azienda, con il business plan si guarda il futuro dell'azienda. Allora, guardare i bilanci di tante aziende dopo 10 anni di contrazione dei mercati internazionali, l'Italia ha sofferto particolarmente, molto spesso non è un bel guardare. Invece ci sono tante belle idee, tante belle storie industriali nel nostro paese che possono essere raccontate agli investitori e a mio avviso possono essere finanziate da chi appunto guarda in prospettiva e non solo al passato. Grazie a Pierluigi Bocchini, presidente di Club, una bella azienda della Vallesina di Iesi, caro sì, Mauro. Sapevo che l'avresti ricordato, ma io invece voglio chiamare in causa la nostra altra ospite, la dottoressa Barbara Lunghi, che è responsabile dei mercati primari di Borsa Italiana, cioè colei che vede queste belle storie, per citare quando ci stava dicendo adesso Pierluigi Bocchini. Buongiorno dottoressa Lunghi. Buongiorno a voi e agli ascoltatori, e in effetti ne vedo tante di belle storie ultimamente sui mercati. Adesso il listino AIM ha raggiunto le 90 società proprio oggi, l'abbiamo ricordato, perché c'è stato il debutto, come diceva Deborah in apertura di trasmissione, di Equita Group. Quindi insomma, questo tipo, forse le aziende italiane stanno cominciando, quelle voglio dire di minore dimensione, a fidarsi un po' di più del mercato azionario, della borsa? Hanno superato le resistenze? Ma io credo di sì. Le aziende che si quotano e possono ambire alla quotazione in borsa sono aziende vero di piccola dimensione, ma anche aziende estremamente ambiziose che vogliono crescere, vogliono farlo in modo sano, in modo trasparente, raccogliendo capitale a servizio della crescita. Tanto è vero che la maggior parte di queste aziende si quotano proprio effettuando aumenti di capitale. Le società, la statistica ci dice che circa il 90%, 92% per l'esattezza, della quota raccolta su Emitalia è in aumento di capitale. Certo, accotandosi si assumono responsabilità, si coinvolge un azionariato diffuso di investitori istituzionali, di investitori retail, per cui senz'altro bisogna approcciare questo strumento con la giusta modalità, ma è uno strumento straordinario di crescita per le aziende e per il paese che ospita queste aziende. Qualcuno teme i costi, esatto. I costi connessi alle attività professionali necessarie per quotarsi? Diciamo che i costi, peraltro sta auspicabilmente arrivando una misura interessante, esatto, da parte del governo su questo tema. Nel disegno di legge di bilancio del 2018 è previsto un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute per la quotazione di piccole e medie imprese con la definizione europea, quindi meno di 250 dipendenti, meno di 50 milioni di euro di fatturato, che andrebbe a coprire fino ad un massimo di 500.000 euro. Questi costi speriamo si concretizzi, questa misura, senz'altro sarà un messaggio importante da trasmettere alle aziende. Vero è che anche grazie all'introduzione dei PIR, ma non solo, perché viviamo in un contesto macroeconomico positivo dell'Italia a livello globale, sui mercati finanziari c'è un grande ritorno anche degli investitori internazionali, questo aumento così importante degli investitori domestici grazie ai PIR, che i valori che si possono ottenere in questo momento quotandosi in borsa, e quindi capitali che si riescono a raccogliere per finanziare acquisizioni, innovazione, processi di internazionalizzazione, sono tali che forse i costi si diluiscono un po'. Certo. Dobbiamo chiudere, dottoressa Lunghi, grazie molte, ma la reinviteremo sicuramente molto presto perché sono temi interessantissimi. Devo dare la linea ad Alberto da Modena, velocissimo, quanti anni bisogna stare investiti sui PIR per avere l'incentivo fiscale? Almeno 5 anni. Alberto ha vinto, bravo, grazie. Poi Francesco da Milano ed Emilio Napoli chiedevano appunto delucidazioni sull'aspetto che non riusciamo a trattare oggi, il tema dei costi, però dipende da società a società. Alberto Foa, sì, tra l'altro la MiFID 2 obbliga gli intermediari finanziari a dire quali sono i costi degli strumenti in termini monetari, non in percentuale. Esatto. Cioè se tu investi 100. 10.000 quanto ti costa, ed è una rendicontazione sia ex ante che ex post. Benissimo, usate questo strumento che ci impone la legge, perché l'aspetto dei costi è molto molto molto, molto importante. E noi ci rifaremo qualche altra trasmissione. Mauro, a domani col Black Friday, al photo finish. A domani, ciao ciao.